come principio, cioè di ritornare sempre alla fonte e alla radice. E per quanto riguarda il problema religioso, diciamo che è un suo problema di cristiano, e applica questo criterio a qualsiasi livello. Nel De Professione Religiosorum, per esempio, contesta le definizioni di religiosus che i frati si attribuiscono sulla base della filologia, dicendo: voi utilizzate un termine che è scaduto, lo usate impropriamente, perché religiosus siamo tutti, non solo voi, che fate i voti. Quindi c'è questo recupero, in quanto c'è anche un'implicazione individuale, e lui dice: io sono Miles Christi, cioè io recupero il mio significato di cristiano, che sono uguale al frate, che sono uguale al monaco, il quale non ha una prerogativa superiore perché appunto ha fatto i voti. Vuole dimostrare questo. È chiaro che è contro tutto un sistema che nel 400 abbiamo visto attraverso, soprattutto lo Stato Pontificio, attraverso il problema dei rapporti tra mendicanti, tra i riformati, era nato, no? Cioè, questi ordini avevano delle prerogative particolari. E il Valla si scaglia contro queste prerogative e recupera il senso primordiale della parola, del termine. Poi è chiaro che il suo è il fondamento classico, quello sul quale ritorna. A maggior ragione per il testo scritturale, questo, per la Bibbia. E quindi corregge anche Gerolamo, viene criticato, ecco, perché osa andare contro l'auctoritas, però lui dice: non vado contro il testo, perché io cerco di recuperare quello che era il testo originale, perché non è scrittura tutto quello che si è sovrapposto negli errori, nelle interpretazioni. Quindi c'è un discorso filologico, paleografico, nel recupero dell'originale. E allora dice: è inutile che mi accusiate di eresia, perché io ho osato attaccare l'autorità, ma le attacca in campo classico, cioè campo teologico, in campo giuridico, in campo... cioè, ogni campo è praticamente oggetto di questa sua guerra verso la proprietas, che è poi l'eleganzia, tra l'altro, per lui, no? Cioè raggiunge in effetti il recupero del latino e quindi il recupero anche di una fonte prima. Però in lui io ho trovato, soprattutto lavorando anche su questi testi, tipo il De Professione Religiosorum, l'Apologia di Eugenium IV, che sono sempre stati interpretati o come testi preriformistici, perché c'è il problema di Erasmo e di Lutero che utilizzano, ho trovato una esigenza, soprattutto cristiana, di recupero di un cristianesimo in cui al centro c'è l'uomo. Ecco, è l'uomo Valla. Non tanto, quindi, perché alcuni ritengono che questo opuscoletto fosse contro il primato del sacerdozio, fosse contro i frati. È contro un modo di vivere una realtà e di non viverla, cioè quindi un recupero di originalità evangelica. C'è proprio questa esigenza di fondo in tutto. Anche ovviamente. Bene, sono contento di vedere che l'area umanistica doveva avere il suo posto in questo convegno sulle traduzioni, visto? Chiedo solo un chiarimento alla collega Cortesi, mi sono arrivato 10 minuti dopo e ho l'impressione, forse non aver capito bene una cosa. Si tratta del modo in cui è nata questa vita, la traduzione di Tortelli di questa vita. Se ho capito bene, Tortelli non usa una fonte sola, ma si rifà a una serie di fonti, tutte relativa alla vita di Atanasio, poi integra di suo anche in qualche modo. Ecco, se ho capito, sì, mi confermi, sì, sì, che sì, questa sì, sì, ho capito bene. Ecco, mi pare, cito a memoria, che ci sia un'analogia con la composizione di una vita Omeri di Pier Candido Decembrio, che aveva utilizzato la vita dello pseudo Plutarco e poi attraverso altre fonti aveva ricostruito una vita di Omero, che appunto era una contaminazione di varie fonti e poi anche con interventi suoi personali. Forse non è molto pertinente questo parallelo, però mi pare che sul piano metodico poi questi umanisti lavorassero anche un po' così, insomma, cioè con una libertà. Sì, non però a livello, direi, tortelliano, cioè... avendo letto altri testi sono rimasta abbastanza impressionata di fronte allo spezzettamento proprio della fonte, che non è, almeno per quel che mi consta, per quel poco che ho letto io, cioè non ho riscontrato allo stesso modo. Però è un modo di procedere che io avevo già trovato nel modo di formulare, per esempio, la stessa grammatica, dove dovrebbe procedere, diciamo, copiando, no, questa grammatica di Scolario, inserendola con degli erotemata che circolavano, con Moscopulo, per esempio. Quindi è tutto un modo suo, perché probabilmente si sta costruendo e si è fatto delle schede. E qui è arrivato al Concilio, gli hanno chiesto probabilmente di scrivere questo con il materiale che si era costruito, con le letture fatte, mette insieme le proprie schede. E quindi risulta, però direi, guarda, non insisto forse su questo fatto, io a volte mi sono trovata due righe della mia cartella dattiloscritta e poi dover cambiare completamente la fonte, quindi è molto frammentario. Ecco perché dicevo, sono letture che lui si è fatto, appunti che si è preso e poi incomincia a costruire questa vita abbastanza lunga però. Gli altri invece sono delle combinazioni non certo così articolate come questa del Tortelli, insomma, ecco, sì. Va bene, possiamo considerare conclusa ormai la discussione sulla relazione Cortesi e passare eventualmente a quella di Gianotto, se c'è qualche persona che viene informato come lui dei problemi. Ecco, l'abbiamo trovato, benissimo. Prego, Criscuolo, sono contento. In quanto che insomma, con questo problema dei copti, insomma, mi sono interessato un po' molti anni fa, così in passato, insomma, senza insomma, un approfondimento di natura scientifica. Cioè, volevo chiedere due o tre cose, insomma, avere qualche chiarimento. In primo luogo, sul problema dell'origine del cristianesimo in Egitto, beh, non affermerei, insomma, non giurerei che non sia di origine apostolica, lasciamo stare se è stato Marco o meno, insomma è un problema cronologico. Clemente Alessandrino già trova una chiesa molto avviata lì, insomma lui deriva da Panteno, quindi tu forse spezzi le domande, sì. No, insomma volevo se ha qualche elemento nuovo, ecco, perché sì. Le mie conoscenze appunto sono arretrate. Poi mi sono spesso interrogato e tuttora, insomma, ascoltando quando ha detto il professor Gianotto, e sul ruolo che abbiano potuto avere i papiri bilingui, cioè che noi abbiamo una buona serie, una buona messa di papiri a tutti i livelli, scolastico, insomma, quotidiano, di uso quotidiano, insomma, in cui abbiamo il testo greco con la trascrizione copta, cioè papiri che riguardano esercizi scolastici, copie e via di seguito. Quindi questo potrebbe far pensare che Antonio poteva conoscere e ascoltare il greco, insomma. Sappiamo che anche gli atti pubblici erano trascritti in greco e in copto, perlomeno per alcuni. Quindi il problema, ripeto, insomma, è più una curiosità, si intende un problema molto ampio che poi riguarda il problema dello gnosticismo. E anche qui abbiamo gli gnostici presenti in Clemente Alessandrino, quindi potrebbe essere un indizio in questo senso. D'altra parte, pure Gregorio di Nazianzio, quando nell'orazione Barella 28 fa l'elogio di Sant'Atanasio, quindi ci riporta sulle tracce di una chiesa antichissima, notizia che è confermata anche da Giuliano, no? Insomma, l'epistola agli alessandrini dell'imperatore Giuliano. Ecco, ma soprattutto sul problema di questi papiri bilingui, non può darci nessun chiarimento? Beh, sul problema dei papiri bilingui, quell'importanza è anche che ci sono anche dei testi letterari, non solo quelli degli esercizi, cioè per esempio sì, c'è stato quello, anche uno pubblicato recentemente, che contiene delle traduzioni bibliche, tra le quali la traduzione dell'Ecclesiaste, che è bilingue, e in un dialetto fayumico molto molto antico. È stato questo il papiro di Amburgo, che è stato pubblicato solo qua. Sì, il problema però è, voglio dire, quando lei fa accenno al fatto che i documenti erano registrati bilingui, bisogna vedere dove lo erano. Certamente è probabile, cioè, durante il periodo tolemaico ci sono stati i documenti bilingui, nel senso che evidentemente c'erano le trascrizioni, gli originali greci, e poi ci sono i documenti in demotico che di carattere amministrativo. E poi ci sono stati anche evidentemente quelli in copto. Io non so, poi adesso non ho presente quando è che si possono datare queste se sono Ecco, il problema è che certamente per quanto riguarda il copto come lingua non si va prima del terzo secolo, perché terzo secolo siamo già un po', cioè, il grosso problema della mancanza di fonti è il buco grosso del secondo secolo, perché evidentemente nel primo siamo ancora troppo presto per parlare di una diffusione. Probabilmente io non so quando è che o chi ha portato il cristianesimo in Egitto. Certamente qualcuno l'ha portato. Il problema, io considero leggendaria il riferimento a Marco, perché non ci sono come dire altri punti di riscontro, semplicemente è un topos letterario, come dire, rifarsi ad una origine apostolica. Insomma, ad Alessandria sappiamo la presenza di una comunità giudaica fortissima, in cui è evidente il cristianesimo si diffonde in ambito giudaico. È logico, insomma, che avessero la fuga in Egitto in Matteo nasconde anche una certa possibilità, diciamo, di spostamento dell'elemento, insomma, degli abitanti della Palestina, insomma, quindi non dico che sia stato Marco, ma che è un cristianesimo, insomma, di età apostolica, insomma, ma io sono convinto che sia degli inizi del secondo secolo, questo sono convinto anch'io, soltanto che il problema del dire che è stato Marco è una, certo, questo no, il problema poi è anche che si tratta di un almeno io per esempio sono convinto che per esempio uno scritto neotestamentale come l'Epistola agli Ebrei potrebbe benissimo essere collocato lì, quindi si andrebbe anche, se vogliamo, alla fine del primo secolo. No, il problema è che non abbiamo, per esempio, non ci sono, sappiamo certamente che non ci sono delle comunità paoline lì, e quindi è molto difficile, proprio perché le fonti mancano praticamente. Il riferimento che ho fatto io agli excerpta del Vangelo degli Ebrei, del Vangelo degli Egiziani, che troviamo in Clemente, fanno pensare per esempio ad una forma di giudeo-cristianesimo molto sviluppata, e poi ad un cristianesimo con spiccati tratti encratitici. E questo spiega anche come per esempio si siano potute sviluppare delle forme di gnosticismo di carattere strettamente e rigorosamente encratitico. E questo può essere una delle caratteristiche del cristianesimo originario, anche se poi è un po' poco per dire qualche cosa. Certamente poi evidente Eusebio ha tentato di scrivere la diadochè, cioè la successione, anche lì come dire, dei semplici nomi dei quali che non riusciamo assolutamente ad identificare, perché non ci sono riscontri da altre fonti, a partire soltanto dalla fine del secondo secolo. Vorrei anch'io fare qualche riflessione e porre una domanda. Anzitutto sarebbe interessante forse vedere anche l'ambito liturgico, per completare un po' il quadro, soprattutto riguardo a questo problema dell'influsso del greco, perché poi c'è un problema di lingua e c'è un problema di cultura, che non sempre vanno insieme. E anche qui è un problema che pone parecchie difficoltà, parecchi interrogativi. Mi domando, io sentendo giustamente le cose che lei ha detto, indubbiamente la presenza del greco è fondamentale, lo si vede nella lingua in maniera incontrovertibile. Però è altrettanto vero che fermenti antigreci così potenti come quelli dell'Egitto sarebbero inspiegabili se non vi fosse una componente più impalpabile, ma certamente molto presente, che forse ci sfugge proprio per la povertà delle fonti espresse in una lingua che era ancora difficile da maneggiare. Ad esempio, ammettiamo che le traduzioni della Bibbia fossero ad uso più elitario, come appunto si dice. In qualche modo dovevano essere comprensibili. Ecco, io non credo che il problema che il greco fosse una lingua franca in tutto l'Egitto, questo, e che fosse comprensibile al popolo dovunque. Ora, quando Antonio va nel suo villaggio e sente parlare, Antonio non abita vicino ad Alessandria, quindi abita in una zona completamente diversa, se capisce il Vangelo, vuol dire, molto improbabile che il Vangelo fosse letto in greco, in queste chiesette di villaggio. Infatti l'ho detto io. Ecco, appunto, dico. Però se se lo capisce in quest'altra lingua, vuol dire che effettivamente questa è già arrivata ad un tale livello di sviluppo da entrare nella liturgia, cosa che è estremamente significativa. Ecco perché dico che il contesto liturgico è importante. La seconda cosa, il secondo interrogativo che io mi pongo, in effetti la liturgia copta attuale è poverissima di influssi greci, anzi è estremamente contrapposta, direi, alla mentalità greca, soprattutto a quella alessandrina. E per cui se mai vi è qualche legame, esso è più con il letteralismo, diciamo così, antiocheno o asiatico, di quanto non lo sia con l'allegorismo alessandrino, che è completamente assente. È anzi una liturgia poverissima, diciamo, dal punto di vista delle immaginazioni di carattere metaforico, cose di questo genere. Ancora un altro punto che mi fa riflettere è il peso che questa liturgia e questa tradizione ebbe in Etiopia, dove certamente l'influsso greco non ebbe il peso che ebbe ad Alessandria, e dove invece fu estremamente importante l'apporto siriaco, che veniva però non dal nord, ma dal sud, cioè dalle zone della penisola arabica, e dove addirittura la tradizione di passaggi semitici è continua, perfino nel Corano. Ecco, con riferimento del rifugio di Maometto nel regno di Aksum. Ecco, ho l'impressione che qui ci troviamo proprio di fronte ad un contesto culturale in cui le componenti sono estremamente variegate e in cui quelle scritte sono le meno significative, perché sono proprio affidate a una lingua che, pur essendo la lingua di un grosso significato culturale e di prestigio, probabilmente non era la lingua che era maggiormente invece pregnante per quel che riguarda l'espressività religiosa della gente. Anche perché, concludo, non sarebbe poi comprensibile il movimento così profondamente antigreco che si avrà con il rifiuto di Calcedonia, dove addirittura si sa bene che l'atteggiamento non fu primariamente forse nemmeno un atteggiamento teologico, ma fu legato a problemi concreti in cui il rigetto proprio della grecità fu legato al rigetto della politica imperialistica di Bisanzio. Ecco, ho l'impressione, comunque sono convinto che uno studio sulle fonti liturgiche potrebbe portare qualche ulteriore luce su questa specie di cultura sommersa che così difficilmente precipita in una documentazione precisa. Sì, la ringrazio delle osservazioni. Intanto rispondo alla prima parte, alla seconda sono meno in grado di rispondere. Per quanto riguarda, qui c'è il grosso problema del come appunto è nata questa prima produzione letteraria, che io ho detto traduzioni bibliche, e io ho cercato di mettere in luce come le funzioni di queste prime traduzioni, che sono poi un po' gli ambienti di origine della letteratura copta, cioè della produzione di documenti letterari in copto, fosse non soltanto funzionale. Cioè c'è effettivamente, anche secondo me, evidentemente, cioè, nella misura in cui la missione cristiana si sviluppava, c'era bisogno di portare il Vangelo, di portare la scrittura, evidentemente. Il problema però effettivamente è che proprio per l'uso liturgico a cui lei accennava, cioè, sarebbe verosimile, per esempio, che se fossero stati tradotti, per esempio, alcune raccolte, per esempio, di testimonia, come noi conosciamo nell'origine del cristianesimo, ad uso o della catechesi, proprio dei primi passi, eccetera. Il fatto che già nel IV secolo ci siano un'abbondantissima tradizione manoscritta che documenta la copiatura di del Nuovo Testamento quasi per intero, fa pensare che ci sia qualcosa di più. Cioè io faccio riferimento a questo, come dire, tentativo da parte, certamente questi che scrivevano non erano certamente i contadini della Val del Nilo, deve essere una classe che poi bilingue, perché appunto doveva fare la mediazione culturale, che queste tradizioni siano nate anche per un senso di orgoglio di tipo nazionale e della necessità di appropriarsi quelle che sono le scritture fondamentali del cristianesimo fatte nella propria lingua. Cioè, per quanto riguarda il copto non si è verificato come dire, un'ideologia teologica forte come per l'Armino, per esempio, perché l'alfabeto copto sembra sia nato per la trascrizione di formule magiche, siccome l'alfabeto copto, che è derivato massimamente dal greco, riporta anche le vocali, e tutti sanno che se una formula magica non è pronunciata in modo perfetto o non funziona oppure può dare effetti non desiderati, si pensa che il tentativo di trascrivere delle formule magiche egiziane con i caratteri greci del copto, con i caratteri greci, sia stato uno dei primi tentativi che ha poi portato alla formalizzazione dell'alfabeto. Ci sono certamente, secondo me, le due componenti, cioè non bisogna certamente dimenticare la funzionalità ai fini della missione, eccetera, eccetera. E quindi io sono convinto che se la notizia di Atanasio sia attendibile, cioè che Antonio ha sentito questo Vangelo, in qualche modo l'ha sentito in copto, perché noi sempre sappiamo che appunto Antonio doveva essere uno che non lo conosceva. Ma non è, sì, potrebbe essere anche, però sappiamo che siamo in una città del Medio Egitto, non siamo vicini alla regione del Delta. Scusi un attimo, Crispolo, un momentino. È meglio che lui finisca la risposta e poi dopo... In questo senso io sono d'accordo che ci sono queste due componenti. Per quanto riguarda poi l'utilizzazione delle fonti liturgiche, sono convinto che certamente darebbero qualche cosa. Io non me ne sono occupato perché ho voluto ragionare soltanto sulla documentazione letteraria più antica, e le fonti liturgiche sono un pochino più tardive. Certamente però, qui bisognerebbe però essere un liturgista per riuscire a tirar fuori da fonti più tarde quello che poteva essere, ci potrebbe essere anche di più antico, e questo io francamente non sono in grado di farlo. Dunque, ora, siccome ogni cosa deve avere il suo giusto corso, e la discussione sta già prolungandosi, vorrei limitarla a un ultimo intervento. Vuoi intervenire ancora tu, Criscuolo, oppure qualche altra persona? Je me suis occupé de manuscrits coptes uniquement parce qu'ils étaient bilingues, mais j'ai été frappé du nombre relativement important des bilingues du Nouveau Testament par rapport aux bilingues grec-latin, par exemple. Et je voulais vous demander quelle est à date ancienne la proportion de ces manuscrits bilingues par rapport aux manuscrits écrits entièrement en copte pour le Nouveau Testament. Je ne saurais dire en questo momento così. Mais est-ce que pour vous il y en a très peu ou il y en a un nombre important? Il y en a, ce ne sono molti, però adesso non saprei dire se sono di più o di meno, così su due. Non so. Et alors, ce que j'ai remarqué également, c'est que ces manuscrits bilingues sont de très bonne qualité. Ce n'est pas du papyrus, c'est du parchemin. Ce sont des manuscrits très soignés. Et dans l'écriture desquels, parfois, si on les regarde très vite, on ne sait pas de quel côté est le grec, puisqu'il y a un bon nombre de lettres communes. Allora, penso che possiamo chiudere ormai la... No, allora possiamo concludere adesso la discussione.